diciamo, leggeri. Già me lo faccio vedere col filmato, guarda, è pazzesco, veramente pazzesco. Ok ragazzi, io purtroppo sono di corvée, devo andare a preparare la cena. Vi ascolto volentieri ma non riprendo. Vai Bomboli. Capa, eppure in quegli anni ci sarebbe voluto essere risate. Ma comunque io c'ero, cioè entravo perché ero piccolo, quindi lo sentivo già dalla prima volta subito, quanto sei giovane, che quanti anni hai, tante cose. Ti ricordi quando diceva, ma stai facendo Falco, fa una sola e mi sto giocando con la pupa mia. E ci stava sbagliettando, no, ma si chiama la chi. Vabbè, io c'ho tutto l'MP3 di Falcone, c'ho tutto quanto. L'MP3 dove canta, dove fa tutte queste storie, dove lo fanno incazzare. Per carità. Fuori di testa nulla era. E io tu quando ti dicevo peloso sì, allora tra tra tra con un microfono. E allora stava sempre. Caro, non mi piaci. Così sta zia. Quando... qualcuno la latte dolce li faceva, palloncino li faceva e si incazzava. E a me mi diceva peloso sì. Allora lo facciamo il gioco della colza. Prima ti togli le colze, poi ti abbassi i pantaloni. E quando si incazzava era un casino. Si incazzava. Si viaggia nei pirosi. Tutto gatto, tranquillo. Casco, non te ne fai la vergogna, gli diceva. Ma se non te ne brutto porcaccione che non sia. Piero lo faceva a pezzi anche Ignazio, Spiti Gonzales. Ma te lo ricordi Adriano Lando, quello che abitava in via Sorso, che parlava con me, Antù? Io l'ho anche conosciuto Adriano, sì, quello che c'aveva gli officine sotto lì. Una sera stavo parlando con lui e ne entra secco secco Falcone. Non ci parlare con quello che fino occhio, cioè a me io lo rifindivo, ti immaginai? È perché ogni tanto ne salivano i ravini a testa. Però ha fatto storia, la storia della CB ha fatto Falcone in qua a Sassari. A che intanto li va a vedere? Ci manca. Ci manca, sì, la volta che avevo messo l'antenna, che abitavo il Sacro Cuore, alla fine è entrato, adesso mi hanno rotto i coglioni, a me stai dicendo Paolo? No, è che, non è che volevo dire, è che vado su uno e sei da te, vado su qua, adesso mi sentiva perduto, poverino. No, lui arrivava un bel forte, l'hanno sentito addirittura in Corsica, da tutte le parti arrivava. Vabbè, poi lui era sempre lì, cazzo, propagazione o no, era sempre seduto lì, era come di chi c'era il canale 9. C'è un'emergenza, chiamava venuto di sfortezza, io molte volte facevo. Chi è? Ascolto. Ehi, vabbè, poveraccio. Ma così lo voglia così, una volta a me mi aveva detto che voleva scambiare il paracchino che avevo io 80 canali, e forse ero nel migliore di 80 canali che era uscito la catena di ferro, quello massiccio, e praticamente mi voleva dare un paracchino di 15-120 canali, non so che cosa, e ho detto vabbè lo voglio vedere, sono andato col paracchino mio, e sono andato a vedere il padre a letto, mi ha fatto chiamare, e sono andato a vedere, ascolti, mi dispiace che l'ha fatto venire qua, però ho detto, se vieni da quel baracchino lì, vai in strada, si mette a parlare col baracchino e lo mettono sotto. Io guardi, ho i soldi per comprare, non uno, no, ma quanti ne vuole di baracchini, però non portatili perché se li compro un portatile si ammazza. Nell'erba, nelle cose, rosso. sì, no, era così. Io gliel'ho riparato quando lavorava alla Seatronic, 5-6 volte il Texas gliel'ho riparato, sempre con il finale bruciato. Eppure dice che non ne bruciava mai il finale, c'è Valam International lui. Quando c'è Valam International stava faceva passaggi di ore, che non si bruciava il finale. No, io il Texas, la Fayette Texas, gliel'ho riparato 4 o 5 voci. Una volta aveva il finale audio bruciato, una volta l'alimentazione perché aveva sparato il trasformatore, l'alimentatore l'aveva sciolto, e una volta il finale perché aveva lasciato la portante tutta la notte. Oh, ne combinava tutti i colori. Io ho tutte le scaricate sulle MP3, Falcone a Castroncaro, ci mette a cantare lì, poi Falcone a Diratto, Falcone che va a scuola, perché io vedi quando andavo a scuola che ero bambino, ci mette a raccontare la storia così, capito? Come ogni tanto si incazza, poi dicevo, Paolè, mi, ah no, scusa, Anto, te la posso cantare una canzone, rose, rose. Che microfono stai usando, Anto? L'M300. Perché adesso gli hai messo lei come... Ah sì, non me ne sono neanche accorto. Sì, sto usando l'M300 con il Galaxy SSB, ecco, quello come il Saturn Echo senza il frequenzimetro. Io ce l'ho una sorta, praticamente ho fatto un microfono, avevo tutto il circuito dell'M300 e l'ho schiaffato in un microfono che era similare, c'aveva il cursore come l'M300 davanti, tutto quanto, e sono riuscito a farlo, praticamente l'abbiamo fatto con Franco, abbiamo fatto quel microfono. Era un Lindsay? No, non lo so cos'era. C'aveva praticamente il cursore davanti, ci stava giusto, sicuramente aveva lo stesso circuito dell'M300, ci stava giusto, l'avvitava negli stessi punti, eccetera, eccetera. No, io questo qui l'ho comprato la settimana scorsa, l'ho trovato a un mercatino oristano, 100 euro, l'apparecchio e il microfono. Che apparecchio è? Il Galaxy, te l'ho detto, SSB Echo, come il Saturn Echo, ma senza il frequenzimetro. Ma è in buona condizione. È perfetto, ci ha scolorito poco a poco la scritta microfono. Ah, che pagata. Va bene, perché ci sono mercatini da genere, Orissa? C'è uno, io sono capitato lì, stavo cercando dei dischi per mia figlia, dei vinili, e mi sono visto questo, c'aveva anche le maniglie, ho detto va, meno male, 100 euro, mi vendono le maniglie 50 euro, perché me le avevano chieste, tempo fa ho venduto là da 555 io, e mi aveva chiesto le maniglie il tipo, se gliele recuperavo, che mi dava anche 50 euro, ho detto ma lo compro 100 euro, io mi te le vendo le maniglie a lui, e con 50 euro mi sono fatto microfono e radio. Ma infatti, no, ma lascialo così, dai, quelli. Ma a me poco interessa, io di solito uso il Pluto oppure il Magnum. E io nel Magnum l'ho messo col microfono che ti ho detto, nel Magnum. Ciao, va bene, sì, è un bel microfono. No, vabbè, questo qui è... Io ne ho anche uno mio, di M300, ma non so dove è andata a finire. Può darsi che l'abbia lasciato in campagna la mia mamma, o può darsi che l'abbia prestato a qualcuno, non so. Però questo qui, no, davvero, è anche messo in condizioni ottime. Il cavo spedalato è buono, c'è ancora il cavetto suo intestato. Penso che non l'abbiano mai sostituito perché ho guardato i contatti e sono ancora saldati ben bene. Vabbè, fatto un affare, dai. C'erano anche baracchini. Sì, c'erano due omologati, un un Polmar c'era, veicolare, un Polmar e un... ce l'ho anche... dovrei avercelo buttato in qualche cassetta, uno di quelli fini fini sono 40 canali con... non me lo ricordo. Comunque robecce così. Questo mi ha spiccato perché era anche in condizioni abbastanza ottimali, pulito, nel senso sì, c'aveva dalla polvere, si vedeva che non gli avevano lasciato ieri, però non ne capiva niente, il tipo gli ha detto, senta, ma questo funziona? E non lo so cos'è, lo accendiamo? E gli ho detto, sì, accendilo. No, no, mi ha detto glielo accendo, funziona. Tanto è vero che l'ha collegato alla spina e l'ha acceso, però gli ho detto ma funziona? Sì, si vede che è acceso, non li sappiamo anche dove se la vendende. Vabbè. Non ne conoscono neanche il valore, se no avrebbero venuto di più. Ah, infatti ho detto, vabbè, certo, io non sono stato lì neanche a discutere. Io ho fatto l'accentino, me lo sono portato via, l'ho caricato in macchina. Quello, la volta precedente, un paio di mesi fa, avevo preso il Pony, il 23 canali. Ah, carino, ma sempre in base. Sì, sempre in base, quello con l'orologio, che funziona proprio l'orologio, con la sveglia. Ah, questo era una stazione in base, dai. Sì, sì, no, l'ho preso così. Vabbè, quello là costava 30 euro, l'ho preso. E il Pony è quello che sembra una radio di quelle vecchia era, dai. Il GB75, che ce l'avevo io tanto tempo fa, che era di coso. Non mi ricordo come si chiamava adesso di nominativo. Era un vecchio GB, vecchissimo. È morto quando, all'incirca qualche anno dopo che ho iniziato a parlare io, ed era il suo. L'avevo venuto a un coso, a Walter. Ma quanto dai, io ti lascio adesso che devo portare giù il cane, devo fare una bella passeggiata, che devo portare roba a mio figlio. Guarda, non ne voglio pigliare macchina, vado col cane a piedi e poi faccio una passeggiata. Ci sentiamo, dai. Buona serata a tutti, grazie per l'equazione. Ehi, ciao già, auguroni famiglia, allora ho sentito che ce ne hanno bisogno, ci sentiamo, buona passeggiata. Grazie, anche tu, grazie, dai, ciao, ci sentiamo. Ciao, ci risentiamo. Da. Ciao, ci sentiamo, dai. Tanto fra poco dovrei venire a portarmi la bombola. È quasi scaduto il termine. Siamo sempre. Cavagata, ciao. Antonio delle bombole, riprendi. Ehi, avanti. Ehi, aiuto, parla. Cosa fanno? Dove c'è del Pony, il Pony, la cosa che non mi viene in mente che parecchio è, sto pensando a poco fa. È vecchio, ha più di 40 anni. Ma l'hai preso, tu l'hai comprato? Ehi, l'ho preso, sì, al mercatino. Se in ottime condizioni c'è anche un suo valore con la radio. Lo so, abbiamo offerto 100 euro, ma non me ne ha fatto in punta, rimane dov'è. L'avevi trovata? No, è bello, è bellino, niente di che, però fa il suo effetto. Ma io fa il cambio con questo. Ma vai, Natalie, ma guardami, mica lo so cos'è quello. E come fai? Come faccio? Come faccio? Perché ti chiedi che ho i diti in bocca io. Vecchia volpe. Porca zozza. Oia, e dopo già salgo su, non ti preoccupare. Ma non è di quella marca che pensi tu, mi. Uia, quanto non ne ho voglia, che meno male che domani non ci devo andare a lavorare. Ma neanche con questo lo cambierei, non ti preoccupare. Come non lo cambi con quello? Ma stai scherzando? Con questo che io ho a casa, Il cocco lo avrei cambiato subito io. L'ho visto se indoccano. Ma, hai sentito, Natalia, non lo cambia con quello. Perché non l'ha visto all'opera, io sto facendo piccolo, mi, perché sono stazionari, poi quando piove mi si viene l'antenna, 2,5 stazionari, non posso manco modulare, ecco perché voglio cambiare l'antenna. Ho capito, la modulazione ce l'ha di un qualcosa che conosco, però non vorrei sbilanciarmi. Beh, potresti anche conoscerla, non è che non lo... è di quella specie lì. È di quella specie lì? Ma che cos'è? Un trabicolo o una motobicicletta? Una motocarrozzella. Non è di quella serie là. È di ultima generazione. No, è vecchio. Ma molto vecchio? Sì. E allora se è vecchio... Però non è vecchio, non è della serie K. Della serie I, capito. Sì, ne stavo cercando anche uno io tempo fa. Anzi, veramente ne volevo acquistare uno. Poi non era quello che volevo io, era la versione 3 invece che 4. Ecco. Questa è la versione 7. Ah, ecco. Addirittura sono andati avanti. Sì, a voglia. Bene. Anzu, invece tu lo stai usando, l'Avan 48? Ma che io? Giulia, te la voluto. Cosa, l'Avan 48? Cappa. Ma perché? Cosa c'ha l'Avan 48 che non va bene? No, ma non è, non sono una matrice radio, no? Infatti tu hai detto, ma tu lo stai usando anche l'Avan 48 e tu mai, tu hai ce la voluto. Beh, a chi non si intende cosa è? Non lo sento io, no? Ehi, vabbè, andiamo piano, va. Il microfono è normale, quindi non si sente niente. No, è normale il microfono. Allora, Natali, tu senti qualche cosa? No, non sembra neanche uno di quelli. Quello che dico anche io. No, ma non sembra. Io qui l'ho accesa poco fa, te l'ho detto anche, che quando l'ho accesa non funzionava, era stata una sminchia. Qui si sono ripresi i condensatori piano piano, però non sento nessuna differenza. Ad esempio con altri la sentivo prima. Cappa, vai. Ma questo è qualcosa di più dell'Avan 48. Ah, cos'è l'Avan 44, 34 canali? No, ah, ho capito, Natali. Oh, anche io ce l'ho l'Avan 44, c'ho l'Avan 44, l'Avan 14 e l'Avan 43. Ma Zucchi, uno non me lo dai a me. Guarda, se fossi ripreso da me te l'avrei dati tutti. E io ne stavo cercando uno mio, anche il 14 andava bene. Io devo dare un'occhiata all'Avan 44 perché l'altro giorno mi hanno detto che non stavo uscendo bene. Adesso se mi danno quei 2-3 giorni di fede che mi dovevano dare, gli do un'occhiata. Sto valutando, ho visto che la ricezione è buona, la trasmissione non l'ho provato, ma vorrei sapere che cazzo c'avevano quelli che mi stavano ascoltando. Comunque, ok, ho provato con gli strumenti, la potenza c'è, la modulazione è buona, stazionaria non ce n'erano, ma mi hanno detto che mi sentivano male e niente. Io ci sono molto affezionato, all'Avan 44. E più di uno non lo devi fare andare, di macchine, magari ce l'avevi un po' più alto e stavi strappando, magari si sentivano male per quello. Beh, sicuramente quando stavo spolverando, perché io ho quella farina, sai, quella sorta di bastoncino pieno di peli, tipo un coso di zucchero filato, e lo uso per spolverare, magari come l'ho passato ho toccato qualcosa, perché gliela passo sempre, deve essere quando torno a casa, scendo giù in cantina a fare qualche lavoretto, gli do una risciata, sicuramente l'ho passato qualcosa e ho mosso qualcosa, quindi quando sono entrato, che stavo parlando, mi ha detto, non si sente niente, non l'hai fatto, si comprende nulla, vabbè, poi non avevo tempo, ho spento. Bene, riprendi Antu, è andata a consegnare la bombola. No, no, adesso io chiudo e vado a fare una cosa, capito? Chiudo un attimino e devo andare in bagno a farmi la doccia. Dai, ci sentiamo dopo se coincide. Ciao Anto, voi non andare a fare l'amore, sparito. Anche quello ci vuole. Vabbè, ma fallo. Calma però, a piccole dosi, Anto. Piano piano sempre andendo. E se no come ti dici a nonna di muovere in carezza. Ma tanto è stato fradetto, sempre in giro Mio lui se lo può permettere. Caparinina, invece noi popoli bisogna che andare a travagliare. Così è, non gli piace travagliare. Non gli piace lavorare. Non lo so, a me non mi piace, ma devo travagliare per il puzza. Vabbè, va. Ci sono fatto un daccio. Cioè nel senso che lo trovaglio a me non mi piace un bel. Sai che l'idea che mi dà se non mi piace? Chi sono sempre i bogli. Rispetto alla professionalità natalissi, la verità. Però, asco. Faccio 50 anni, fra 3 anni mi danno in pensione. Quanto voglio e quanti canto voi? Forse 65. Sì. Se ci riesci, se no sono 67, un cazzotto, mamma mia. E vabbè, allora dico a mio figlio la ricambiamo al Camposanto la pensione. Ti dà quella delega, tu vai a ritiri, fa la mia Luca Pusando. E infatti, un benim. Uiuiui. Ciao, comunque Antu, buona doccia. Mi raccomando, non scendere più di 20 centimetri. Vai piano. E mettiti il boccaglio. Adesso altri 5 minuti anch'io vado a preparare due cosettine che torna la signora, così ceniamo. No, io amore non le faccio, che sono vecchio, però devo dormire. Purvisto. Oh, in Natale io le cartucce le ho sparate tutte quando ero giovane. Adesso mi è rimasto solo il fucile. Yes. Ma tu pure hai parattiti tutti in una buccia. Non sai cos'è, c'erano un po' di tortorelle che passavano, cosa facevi? Non è possibile. Mi l'ho vista correre, ho tirato sul fucile, ho sparato, su 9 ne ho preso 10. Chi è che ha so fatto un udato? Drogato. Hai finito di rompere i coglioni, ti mando i carabinieri a te, Fuggioni? Dove? Ma te l'immagini questo Luca Fuggioni che... Vuoi parlare con uno? La tariva fa uno, vuoi parlare con uno? Adesso solo perché hai fatto il nome mio ti telefono alle 2 di notte stanotte, così impari. Drogato. Ma la bretella? Ma cosa pensi? Che temo che mi mossichi la testa? Tanto vedo le rubrasse, mamma mia. Ma tu fatti le vaccine Antu? Sì, io ne ho fatto. Devo fare il terzo, forse la prossima settimana. Che buccia, ha avuto il rubrasso. Ma nei primi due a me non me ne ha dato problemi, però li ho sempre fatti tutti quanti sulla sinistra, perché io il braccio destro lo uso per guidare, lo uso per mangiare, lo uso per lavorare, lo uso per fare i ditalini. Ma per i gatti? Sì, i gatti, e beh, che c'entra? Sì, per i ditalini sono. Hai gatto o i cani? No, i cani no, non mi piacciono i cani, c'hanno la coda. Però solo sulla sinistra me lo fate fare, infatti mi ha detto la dottoressa, dice ma l'altro l'ha fatto, no, ma lo faccia lì, non si preoccupi lì, faccia lì. E boom. E a me il terzo mi ha fatto male il braccio, gli altri due no. E sempre sulla sinistra me li ho fatti fare. Ne ho giocato 4, pure l'antinfluenzale ho fatto. Però questa terza dose mi ha fatto male il braccio, Luca rassegnati, tanto ci dura un giorno. Ma te l'hai fatto così in fretta perché c'è tua mamma in casa, Lu? Sì, mamma è vaccinata, tutte e tre, sì. Ma dico, tu l'hai fatto prima perché stavi con lei? Le ho fatti perché dovevo farne a tu. Me lo sono prenotato, era per il 30 dicembre, me l'ho fatto stamattina. Come era per... Io l'ho provato a prenotarlo, ma l'ho fatto fare. Sì, sono tirato, ma sai che è successo anche a me? Sono tirato le prime date, dovevo scendere ancora più giù. E dietro qua ci va a prenotare. No, io ho provato, Lu. Niente da fare, mi diceva che non era possibile. Vai in farmacia, prenotati, Antu. Ho preso questa felpa da globo, bella mia, ci ho messo sotto, un miagare, tutto. Su un buio su dentro, vi credi? Un caldo allucinante, da un caldo che era una bellezza, in baile. Io mi sono prenotato in farmacia. E l'ha giovato, tranquillo. Solo che la terza dose fa male al braccio, ma la sorte, è più potente, blu. Ma tu perché te l'hai fatta fare al braccio? E dove cavolo me la facevo fare, bello bene. Nell'uccello, tanto non lo usi, Natali, ho un culo. Cazzo, non ci ho pensato, ragazzi, ma la potevo far fare nell'uccello, tanto non serve più a me. Ma che, c'era già una prenotazione in corso. Ma non è che l'avevi già prenotata, no? No, tu quando l'hai fatta la seconda dose? L'ho fatta il 7 luglio 2020. Ah, ecco, tu l'hai fatta prima, però io l'ho fatta fine agosto. Ah, questo è 2021. Quindi tu l'hai fatta a luglio, quindi agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. E te l'hanno già fatta. L'ho fatta a gennaio, siamo a gennaio, Fate il conto. Sono 6 mesi, esatto, e non è giusto a me, me l'hanno prenotata, sì, 6 mesi, sì, è vero. Sì, ecco perché non me l'hanno data, perché non erano passato, perché io l'ho fatta praticamente a fine luglio, fine di agosto. Ma detto che bastavano anche 5 mesi, tanto lo sai. Ma guarda, io ho chiesto l'altro giorno, lì, per mia figlia, lì vicino a casa tua, e mi ha detto no, dice, lasci dire che non è vero, dice, ci vogliono 6 mesi comunque in ogni caso, sì, alcuni casi, dice, gliela facciamo anche prima a persone anziane, però dice in media sono sempre 6 mesi. Questa giornata hanno detto che hanno anticipato per i 5 mesi, addirittura anche per i 4 mesi. Vabbè, allora se non mi vuoi la gioia, vabbè, comunque. Scusa, stai aspettando la pizza? Sì, sì, sto aspettando la pizza, stanno arrivando. No, mi ha detto che ci sono, il mio medico mi ha detto per i 4 mesi si può fare, io l'avrei potuto fare perché sono asmatico, ma non me ne ha fatti nulla, ho detto aspetta un mese, che ho detto qui in Chivia, a te alla longa, non mi porto un vaccino a 3 mesi di distanza uno all'altro solo perché sono asmatico, se ho resistito prima, anche perché quando mi aspettava a me, io avrei dovuto farlo per primo, poi invece mi è saltato perché stavo lavorando fuori, quindi quando sono rientrato praticamente oramai lui io quello ha fatto. Tanto, a me me l'hanno fatto subito il terzo, sai perché? Perché? Perché sono nella categoria dei rincoglioniti. Ah, ma allora ti hanno fatto il vaccino dello zebedo a te. E allora? Tu hai fatto la dose Alzheimer. Allora, dove andare oggi? Oggi stamattina alle 10:30. Invece ho telefonato e purtroppo mi hanno andata la stabilia e sul terzo, capito? Io sono l'unico con secondo, vuoi fare il terzo, mentre Anna e Ilaria hanno tutte e due il terzo. E Ilaria, loro detto, ha pigliato l'influenza, chiamiamola influenza, che poi non è influenza. Lo so, Cla, perché è così. Io me la temo sempre, già lo sai che mia moglie dove lavora, io sono sempre in premura. Lo so, tua moglie lavora peggio dove lavora mia figlia, capito? Perché lì entrano cani e porci. Poi loro si sono tutti riuniti, 24, hanno brindato tutti assieme, baci e abbracci, e Gacheduno ha fatto il vulgo, ha contagiato a tutti, sicuramente al 100%. Perché l'aria è molto attenta, l'aria da quando è uscita, sempre le FFP2, sempre gialli igienizzanti in macchina, in tutti i luoghi, sempre, sempre, sempre. Capito? Però l'ha presa, le tricchie, ha contagiato pure a me. Infatti sono iniziando a essere anche rauco, adesso come prendo una tachipirinha, vediamo. Però è abbasso la tapparetta, così non entra aria. Forse è lui, dammi bisogno un occhio, invece, mi fa male un bel braccio, mi fa male un bel braccio, no? Un occhio che te escano, me ne prendo una, insomma me ne escono gli occhi. Oh, scusate, dei cibi, non è che c'è qualcuno che vuole prendere una supposta? Sì, a me mi piace, che supposta è? Il mio duro? No, il mio vengo. No, non l'ho mai provata quella, io uso sempre quella mio duro. Ma lei non viene a poche? Ma si può sempre provare cose nuove, sì, allora, andata lì. Cambiamo tutte e due, il mio duro non serve più. Alla Tani non gli so nemmeno anche la pensione. Ma tu che c'hai l'esperienza, dimmi l'esperienza che hai vissuto. Io ho vissuto un'esperienza molto problematica, diciamo che all'inizio era molto dura per andare avanti, poi una volta è andata avanti è diventata tutta molle. Sto prendendo l'occhio, mamma mia. È buona all'inizio, ma poi pensa questa malogno. Perché ti riprende sempre una puntina di zucchero. Ma non è cattivo, Guarda, ce l'ho qui in tasca. Lo prendi senza acqua. Se ne accorgi dopo un po', che questa roba mi viene. Però la verità a me, altre medicine non le prendo, non mi fanno effetto. Tipo, ti faccio un esempio. Aspetta cosa. Quando ho la febbre, la tachipirinha, non mi fa di nulla. No, invece a me non mi fa niente l'occhi, mi fa di solo bombetta. Beh, c'è l'occhi, io no, devo la febbre a 40, oggi è 40, vabbè, sono più grande, la tachipirinha non mi ha fatto nulla, e l'occhi mi ha fatto la mano di Dio, il latte è caldo, me sono preso una, ne prendevo una ogni 6-8 ore. Lo so, però purtroppo non c'era così, a me, ripeto, l'occhi mi fa il mal di stomaco, mi fa rivedere poi, mentre che adesso il Brufen per i dolori, la tachipirina per la febbre, non mi fanno niente, nel senso non mi fanno niente, io sai, soffro di stomaco a prescindere, quindi, però proprio l'occhi per me è una maledizione. Lo so, non è a tutti, dicono che fa male, che fa male. di mari, lui, che è meglio il Brufen che un altro tipo di medicinale, perché lui che dice ti buca lo stomaco. Però anche io mi aiuto molto, anche per il dolore alla schiena. Quando capitavo che mai mi c'era qualche giornata, no? E mi metto anche la faccia, prendo una bustina, grazie a Dio ce la tiravo tutto il giorno. No, io quando ho mal di schiena, se mia moglie non mi fa le flebo, esce di gabbo. Quando ho mal di schiena devo fare una serie di flebo di artrosilene col muscolo, se no non me ne beso manco da ruritto, perché non riesco proprio a tirarla sulla schiena. Boh, signori, è arrivata la sostanza. Vi abbraccio, vi auguro una buona serata, una buona nottata, un buon risveglio, una buona colazione e vi abbraccio tutti. Ciao! Ciao ciao! Anch'io vi saluto tutti, buonas noches. Cucciaccios. Ciao Antu. Buonanotte anche a te. Ciao Natalino. Io già sono in ascolto. Avanti Claudio, ci sei. Vabbè, in ascolto, penso facciamo una cosettina al computer che ti devo fare lì, Lise. Vabbè, quando rientra salutatemelo voi. Ciao Luca, ciao Natalino e ciao Claudio. Vi abbraccio tutti. Ciao. Ciao Antonio. Attenzione 10 K. Hola, hola. Ti darò qualcosa. Ma io da quel giorno non ti ho più visto. Luca, tu sei? Sì, Anto, beh. Sì, Anto, mi senti? Kappa che ti sento, Lu. Via. Io non ho mai bloccato nessuno. Una bomba, una bomba. Ma quale, la mia? Bella. A zucca? Sì, più dell'altra pure. Veramente? Sì. Allora già va bene. Di lusso. Vabbè, anche l'altra non era male. Solo questa sembra che spinga di più. E andava bene. Le buche alle buchette. Cappa, va. Pezzi, se lo sono un fracco. Ti credo. Che ha pagato? Lascia vedere. Allora. Devo fare. Boh, come si fa? Oh, via. Capo. Alimentatori, sempre il povero Cioga. Ho capito. Che l'alimentatore, lo chiamano il povero, l'alimentatore povero, però funzionava. Oh, io mi trovo benissimo, l'ho messo, come si chiama, l'ho messo per rallentare la ventola, una resistenza, perfetto. A me va sempre tutto originale e funziona benissimo, funziona. Raffredda bene, non mi ha mai rotto le scatole. Manca a me, l'altro invece che mi avevo regalato stava difettando qua, come l'ho attaccato faceva salire il QRM. Ma quale? L'altro quello che c'ho giù, quelli switching, quelli senza strumenti, dai. Cineseria, come si dice? E mi batteva il QRM, anche giù, la marina. Facevo il QRM. E allora niente, me lo sono ricomprato. E ho preso quello da 50 ampere, è 50 il mio oggi. Non ho capito perché faceva così, boh. E adesso altro, non lo so. Non saprei il problema. Come vuoi andiamo, che? 50 ampere ci alimenti in radio seria? Eh sì, io c'ho, allora qua c'ho, questo mi ha dato Claudio lo stesso, il, come si chiama? Il, quello stabilizzato, e, ma, che cavolo si chiama? ZG modello 1220, 25 ampere, ma è pesanti, questo pesa 50 kg. Pesa un bel quello. Ma no, va bene, sono un bici. Ma Romanco arresi, cioè, quando lo tiri, quando lo carichi, c'è la pace. Sì, sì, a voglia. 25 ampere. Poi te da 20, dai. 20 continui, 20, 22. Ha voglia. Sì, regge la grande, poi si attacca anche l'amplificatore lì, tranquillamente. Se lo butti a terra, magari lo switching, poi lo risolvo. Se magari lo butti a terra. Una prova, se mi apri questo cavolo di hard disk, cioè una roba adesso importante, speriamo che me lo apra, se no vedo un casino, sincero, non mi dato il hard disk, che c'è, vedete, vediamo che c'è roba che mi serve dentro. Allora io mi sto addormentando. Ce la risentiamo alle prossime, ok. E via, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte anche a te, ciao, ciao. Buonanotte anche a tutti gli ascoltoni. Ma come ho sentito un segnale bassino, ma vabbè. Non so chi era. Ok, dai, buonanotte. Ciao. Mi nomi Torra. Avanti, chi è? Avanti Piero! Ciao Mirko, buonasera! Molto basso sei! Sei Santiago 3 sei! Non so come mi senti tu a Larghero! Capo, mettiti un'antenna più performante. Capo. E metti un'antenna buona, un'antenna buona che funzioni bene. Ok dai, ce la risentiamo Mirko, mi ha fatto piacere, non so se Luca ti sente. Basso, lo sento, tanto basso basso. Kappa, ciao ciao Mirko, Kappa, saluta lui. Sì, ciao Mirko se mi ascolti, basso basso ti sento. Kappa, ti saluta Luca, Mirko. Ok, dai, io ti saluto che mi sto ritirando. Ciao, ciao, mi ha fatto piacere. Ciao, ciao. Ciao, Lu. Sì, ascolta a tutti, ciao.